Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per noi è fondamentale garantire la sicurezza delle autostrade italiane, la sicurezza dei nostri cittadini, l'abbassamento delle tariffe e il fatto che chi sbaglia in Italia paga. Questo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è il vice ministro dello sviluppo economico del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni, che parla della questione delle concessioni autostradali, che sapete è un po' un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle da quando c'è stato il crollo del Ponte Morandi. Movimento 5 Stelle che vorrebbe togliere queste concessioni ad Atlantia, alla famiglia Benetton. C'è però una spaccatura all'interno del governo, dovrebbe essere appunto discussa in Consiglio dei Ministri. Ne parleremo, così come parleremo di molti argomenti che affollano in questo inizio d'anno la politica italiana dopo che è stata praticamente fagocitata dalle crisi internazionali. Ancora adesso naturalmente concentrata su questi temi geopolitici così importanti, però cominciano adesso man mano a entrare nell'agenda anche molti altri temi, la legge elettorale, poi il taglio dei parlamentari che viene sospeso, una serie di cose di cui parleremo, così come ci occuperemo ancora naturalmente di quello che succede nell'altra grande crisi internazionale, a parte quella della Libia, che è quella tra l'America e l'Iran. Sembra che ci siano da una parte così dei tentativi di pacificazione, dall'altra di nuovo minacce reciproche. Insomma, poi faremo un po' il punto e poi parleremo anche dell'annuncio di una notissima pop star internazionale. Cercheremo di capire qual è il suo problema. Per intervenire, non c'è bisogno che ve lo dica, ma ve lo dico lo stesso, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte a vostra disposizione, oppure sms e whatsapp al 349 238 6666. Direi che intanto vi ricordo che il Twitter è Roby con la Y, Linetta Bassa Giordano. Possiamo partire con la sintesi della giornata. Libia, il premier libico Sarraj accetta il cessate fuoco chiesto da Erdogan e Putin, ma il generale Haftar no. Vertice Conte Di Maio sulla crisi libica, a Roma arriva un ministro del governo Sarraj. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran, America pronta a negoziare la pace, Teheran fa sapere che non vuole la guerra e intanto il Parlamento americano vota per limitare i poteri di Trump. L'aereo ucraino precipitato in Iran, nuovi dubbi americani sulla causa del disastro. Gran Bretagna, la Camera vota definitivamente per la Brexit che mette però a rischio l'Erasmus. L'annuncio di Justin Bieber, la pop star canadese, dice di essere malato di Lyme, una malattia che può dare problemi neurologici e cardiaci. Partiamo quindi dal caos Libia, si va verso una tregua d'armi dopo l'accordo raggiunto a Istanbul tra due maggiori sponsor dei rivali, al-Sarraj e Haftar, anche se quest'ultimo, il generale Haftar, in serata ha respinto il cessate il fuoco. La crisi in Libia e quella tra Stati Uniti ed Iran nel pomeriggio sono state al centro del vertice a Palazzo Chigi fra il premier Conte e il ministro degli esteri Di Maio. Il presidente del Consiglio ha avuto anche un colloquio telefonico con il presidente iraniano Rouhani, ma è soprattutto la situazione in Libia a preoccupare il nostro governo, che prova a recuperare il terreno perso sul fronte diplomatico dopo l'iniziativa di Russia e Turchia. Dopo la visita annullata all'ultimo dal premier Sarraj, un esponente di primo piano del governo di Tripoli è atteso a Roma nelle prossime ore. Di Maio intanto propone anche un embargo europeo per bloccare l'arrivo di armi nel paese nordafricano. In Libia arrivano armi perché ci sono varie interferenze in questo conflitto da parte di stati esterni. Dobbiamo anche trovare una soluzione con l'Unione Europea per far rispettare un embargo sulle armi, in modo tale che non possano più arrivare armi alle milizie, alle fazioni che si stanno combattendo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed è il ministro dell'interno libico, Bijaga, del governo di accordo nazionale di al-Sarraj, secondo quanto si è appreso, il politico che è giunto in serata a Roma da Tripoli. Secondo quanto si apprende, il ministro è arrivato nella capitale per incontrare l'ambasciatore americano a Tunisi, Donald Blum. E poi la crisi tra Iran e Stati Uniti. L'Iran non ha intenzione di entrare in guerra con gli Stati Uniti, così dice l'ambasciatore di Teheran, Ravanchi, all'ONU lo dice, e l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Kraft, annuncia che gli Stati Uniti sono pronti a impegnarsi senza precondizioni in seri negoziati con l'Iran. Il presidente americano Trump, tuttavia, annuncia che sanzioni contro Teheran scatteranno immediate e durissime. L'ambasciatore iraniano in Italia, Bayat, afferma che i negoziati saranno possibili solo nel caso di un ritorno degli Stati Uniti all'accordo nucleare e alla cancellazione di tutte le sanzioni. Intanto il Parlamento americano vota per limitare i poteri di Trump e ce ne occuperemo nel corso di questa puntata. L'aereo ucraino precipitato in Iran sarebbe stato un missile, dice la stampa americana. L'Iran nega e invita i paesi coinvolti dal disastro a indagare. Ma poco fa è arrivata un'agenzia, la vedo in questi istanti, arriva questa dichiarazione dal Canada, dal primo ministro Trudeau, premier canadese Justin Trudeau, che ha detto che secondo numerose fonti di intelligence l'Iran ha abbattuto con un missile aereo l'aereo ucraino caduto ieri a Teheran. Tra le 176 vittime, 63 erano canadesi. E quindi ecco perché anche il forte interesse del Canada nel capire quali sono le cause. Questa è l'ultima agenzia che è arrivata. Già oggi, insomma, in queste ultime ore si parlava di un sospetto che fosse stato un missile iraniano, i missili che l'Iran aveva sparato, lanciato per rappresaglia sulle basi americane, anche se non si erano fatti grandi danni. Però purtroppo evidentemente uno di questi missili parrebbe possa aver colpito questo aereo con 176 persone a bordo. Poi magari torneremo a parlarne, ma soffermiamoci adesso sulla politica italiana. Mentre si cerca la quadra sul fronte della prescrizione, il taglio dei parlamentari viene sospeso e il Movimento 5 Stelle perde pezzi. Colpo di scena sul referendum confermativo contro il taglio dei parlamentari. Il deposito delle firme in Cassazione era previsto per questa mattina alle 11 con tanto di annunci alla stampa, ma all'ultimo momento ben 4 firme delle 64 necessarie sono state ritirate e la consegna slittata. Si tratta di 4 senatori di Forza Italia e a loro potrebbero aggiungersi anche alcuni del PD. Il termine ultimo per il deposito è ora il 12 gennaio, quindi non è detta l'ultima parola. Fiducioso il promotore, il forzista Andrea Cangini, una crisi destinata a rientrare. Una consultazione, lo ricordiamo, che chiama i cittadini a votare sulla riforma voluta dai 5 Stelle, che taglia di un terzo il numero di deputati e senatori e approvata da tutte le forze politiche a ottobre. Accordo invece nella maggioranza sulla legge elettorale. È stato infatti depositato alla Camera dal Movimento 5 Stelle il DDL che punta a introdurre in Italia il nuovo sistema ispirato al modello tedesco e per questo già ribattezzato Germanicum. 391 seggi assegnati con il proporzionale, soglia del 5%, con un meccanismo per il diritto di tribuna. E intanto nuovi addii per il Movimento 5 Stelle. I deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri avrebbero infatti comunicato il loro passaggio al gruppo misto. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. C'è poi da segnalare il via libera del Consiglio dei Ministri allo spacchettamento del Ministero per l'Università e l'Istruzione, nel Ministero della Scuola e nel Ministero dell'Università e Ricerca. Quindi diventano due ministeri. Nel frattempo il governo si spacca sulle concessioni ad Autostrade, ma poi parleremo di tutti questi temi di politica italiana tra poco. Parliamo di occupazione perché novembre 2019 è ai massimi storici in Italia. A dirlo è l'Istat, un trend positivo trainato dal lavoro femminile, dai dipendenti permanenti, in crescita soprattutto nella fascia tra i 25 e i 34 anni. Il tasso di disoccupazione risulta stabile al 9,7%, ma in un periodo economico difficile torna la voglia di lavoro tra gli inattivi, scesi al 34%. Sentiamo Paolo Rizzi, docente di economia applicata all'Università Cattolica di Piacenza, al microfono di Rosanna Magnano. È chiaro che tutti gli ammortizzatori sociali che hanno sempre funzionato iniziano a vacillare, la famiglia, le reti parentali, eccetera. E quindi riemerge il bisogno del lavoro, anche in famiglie in passato più sicure. Ecco allora che gli inattivi diminuiscono. Ci sono state molte critiche sui giovani, no? Sdraiati, che fanno anche fatica a cercare lavoro perché non lo vogliono alcuni tipi di lavoro. C'è anche una richiesta da parte delle famiglie comunque di accettare anche certi tipi di lavoro che in passato non si accettavano. È segnalata anche una ripresa del lavoro femminile. Certo, ma questo è un trend diciamo abbastanza positivo da diversi anni. Perché? Perché il settore comunque che continua a crescere, tutto sommato è quello terziario, con le nuove attività, c'è il cambio anche ovviamente di tipo culturale, di partecipazione femminile al mercato del lavoro, che guarda caso sostiene la riduzione degli inattivi. Perché sono anche donne, soprattutto, che non sono più inattive. E ora di nuovo all'estero. The eyes to the right, 330. The nose to the left, 231. So the eyes have it. The eyes. La Brexit è addirittura d'arrivo. La Camera dei Comuni britannica ha infatti approvato oggi, senza sorprese, in terza e definitiva lettura, la legge attuativa sul recesso, sull'uscita dall'Unione Europea, con 330 sì e 231 no. Via libera spiana la strada al governo Tory conservatore di Boris Johnson per il divorzio formale di Londra da Bruxelles il 31 gennaio. Ora la palla passa alla Camera dei Lord, poi toccherà alla ratifica dell'Europarlamento il 29 gennaio. Intanto però esplode il caso Erasmus, che parrebbe in bilico nel momento in cui la Gran Bretagna dovesse uscire, come farà, insomma, presumibilmente dall'Unione Europea. Cercheremo di capire se c'è da preoccuparsi o no per i giovani che vogliono andare a fare un periodo di studio in Gran Bretagna. Comunque il sottosegretario all'istruzione britannico Skidmore ha assicurato che la partecipazione del Regno all'Erasmus farà parte comunque dei negoziati con l'Unione Europea. Quindi cercheremo di capirci qualcosa di più. Monta intanto, ieri abbiamo parlato dello strappo di Harry e Meghan dalla famiglia reale britannica, nel senso di ritagliarsi un ruolo diverso. Intanto monta l'ira dei reali britannici, dalla regina alla re del trono Carlo al principe William, per l'annuncio appunto di Harry e Meghan della rinuncia allo status di membri senior di casa Windsor e della presa di distanza dalla famiglia reale. A offendere la famiglia reale non è tanto la volontà dei due duchi di Sussex di rendersi finanziariamente indipendenti, ma il modo precipitoso del loro annuncio, avvenuto in forma unilaterale senza essere concordato, un annuncio su cui però non ci sono passi indietro, e ne avevamo parlato appunto ieri. Per quanto riguarda la Francia, proseguono, anche se in maniera diciamo più moderata, gli scioperi contro la riforma delle pensioni. Sono oltre 120.000, esclusa Parigi, le persone che hanno manifestato oggi in una trentina di città francesi per chiedere appunto il ritiro della riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron. Dall'India, nel 2018 ogni giorno in India sono stati denunciati 91 stupri, 80 omicidi, 289 rapimenti, per un totale di 5 milioni di reati violenti, e in aumento nel 2018 è un aumento medio dell'1,3% rispetto al 2017. Quanto emerge dal rapporto sulla criminalità nel paese pubblicato oggi dal Centro Nazionale di Controllo del Crimine, che dipende direttamente dal Ministero degli Interni. E comunque, per quanto riguarda la violenza sessuale, secondo indagini non ufficiali, i casi di violenza sessuale sia sulle donne che sui minori sarebbero ogni anno almeno il triplo di quelli che abbiamo detto. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca, la strage di Bologna, condanna all'ergastolo per Gilberto Cavallini. Quella fu una strage neofascista e anche lui vi partecipò. Così, 40 anni dopo, arriva l'ultima condanna, ergastolo anche per Gilberto Cavallini. La Corte d'Assise di Bologna stabilisce che anche lui, il negro, come era chiamato ai tempi della militanza nera, contribuì a portare la bomba nella sala d'attesa della stazione. 85 i morti, 200 i feriti. Non gli credono i giudici quando assicura che lui a Bologna non deve abbassare lo sguardo, che quella non fu opera dei NAR, come ripetono da anni anche Francesca Mambro e Giusva Fioravanti, già condannati ma già da anni fuori dal carcere. Per la Corte la matrice è chiara, come chiara è la responsabilità di Cavallini, che sta scontando altri 8 ergastoli in semilibertà. Il verdetto arriva dopo 45 udienze in cui sono iniziati ad emergere, riflette l'avvocato dei familiari delle vittime, inquietanti collegamenti con apparati deviati dello Stato. Ulteriori collegamenti rispetto al ruolo di Musumeci, all'epoca alla guida del Sismi, e di Belmonte, già condannati per depistaggio insieme all'ex capo della P2 Licio Gelli e al faccendiere Francesco Pazienza. La difesa di Cavallini ricorda che questo è solo l'inizio, ma a 40 anni esatti dal peggior attentato in tempo di pace arriva anche l'ultima sentenza. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lutto nel giornalismo, la RAI perde un volto storico e interprete del giornalismo televisivo. Addio Italo Moretti, famoso inviato della RAI in Sud America, aveva 86 anni, è stato conduttore del TG2 e direttore del TG3. Nella sua vita è sopravvissuto a una sciagura aerea nello scalo di Addis Abeba, vicenda di cui fece un reportage che gli valse il premio Saint Vincent, ha vinto molti altri premi, ha sempre inseguito la verità sul caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, e non a caso è stato anche presidente del premio Ilaria Alpi per il giornalismo televisivo. Raccontò le dittature del Sud America, milioni di italiani hanno conosciuto attraverso i suoi reportage gli orrori e le atrocità delle dittature in America Latina. Tanti messaggi di cordoglio alla sua famiglia. Per chiudere, l'annuncio della pop star canadese Justin Bieber: mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, ha rivelato su Instagram il suo momento difficile. Molti, ha detto, dicevano che ero stato, che ero sotto metanfetamine, ma non si sono resi conto che recentemente mi sono state diagnosticate la malattia di Lyme e una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle e le funzioni del cervello. Ne parleremo di questa malattia, di cosa si tratta, quali sono i sintomi e le eventuali terapie. Intanto però ci fermiamo qui, giusto per aggiornare chi invece si sta muovendo su strade e autostrade. Vi ricordo, per i vostri messaggi, commenti, 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo qui in un battito di ciglia, Roberta Giordano con voi, 349-238-6666, il numero per i vostri commenti via SMS e WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte, che fa i capricci però questa sera, mi pare, la pagina, adesso ci riproviamo. Ma tra poco vi ricorderò quali sono le notizie principali della giornata e poi cominceremo ad approfondire alcuni argomenti in primo piano con gli ospiti. Vedevo appunto questo aggiornamento, vi dicevo poco fa, a proposito delle notizie che arrivano man mano per quanto riguarda l'aereo ucraino precipitato in Iran, proprio diciamo una congiuntura particolare in cui in questa tensione tra Stati Uniti e Iran, i missili lanciati dall'Iran sulle basi americane, si sospetta che sia stato un missile iraniano, e il primo ministro Trudeau, primo ministro canadese, poco fa ha proprio detto che, secondo numerose fonti di intelligence, dice, l'Iran ha abbattuto con un missile l'aereo ucraino caduto ieri a Teheran. Tra le 176 vittime, 63 erano canadesi. Vi ricordo intanto quali sono le notizie principali della giornata. Libia: il premier libico Sarraj accetta il cessate il fuoco chiesto da Erdogan e Putin, ma il generale Haftar lo respinge questo cessate il fuoco, e anzi poco fa ha detto che le milizie di Tripoli vanno annientate, cioè le milizie del primo ministro riconosciuto dall'ONU Sarraj. Vertice intanto Conte Di Maio oggi sulla crisi libica, a Roma arriva un ministro del governo Sarraj. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran, l'America pronta a negoziare la pace, Teheran che fa sapere che non vuole la guerra, intanto il Parlamento americano vota per limitare i poteri di Trump. Vi dicevo appunto dell'aereo ucraino, e poi per quanto riguarda la Gran Bretagna, la Camera vota definitivamente per la Brexit, adesso la palla passa alla Camera dei Lord, e però la Brexit metterebbe a rischio, secondo voci ventilate oggi, l'Erasmus. Ne parleremo, così come dell'annuncio della pop star canadese Justin Bieber, che dice sono malato di Lyme, è una malattia che può dare problemi neurologici e cardiaci. Come avete sentito in questi giorni, come vi ho raccontato più volte se avete ascoltato Effetto Notte, nell'affacciarsi della politica italiana in questo nuovo anno, diciamo che si è dovuta concentrare soprattutto sulle due grandi crisi internazionali di questi ultimi giorni, quindi quella tra Iran e Stati Uniti e il caos libico. Su questo Di Maio infatti si è impegnato in un tour diplomatico in questi giorni, c'è stato l'inatteso incontro ieri, tenuto riservato evidentemente sino all'ultimo, tra il presidente del Consiglio Conte e il generale della Cirenaica Haftar. Haftar è, sapete, l'avversario tenace del premier Sarraj, premier libico riconosciuto dall'ONU a livello internazionale, il quale ieri è stato al centro, Sarraj, di un giallo oppure di un pasticcio diplomatico, perché doveva essere presente anche lui a questo incontro, poi alla fine invece è andato direttamente da Bruxelles, se n'è tornato a Tripoli. Ci sono state varie voci che si era arrabbiato perché c'era anche Haftar, che qualcuno addirittura parlava del fatto che fosse stato rapito, insomma. Diciamo che era dato in arrivo e non c'è stato. Oggi, tra l'altro, sempre sulla Libia c'è stato un vertice tra Conte e Di Maio. Di Maio ha detto che farà sapere, ci sarà un'informativa alla Camera sulla Libia, ci sarà nei prossimi giorni, mercoledì esattamente. Fra l'altro, nel frattempo è arrivato questa sera a Roma un esponente del governo Sarraj, ma non per parlare con Conte o col governo italiano, ma per parlare con l'ambasciatore americano a Tunisi. Coinvolgo subito la nostra Barbara Fiammeri, alla quale auguro buon anno, bentornata qui Effetto Notte. Barbara, si sentiva la tua mancanza. grazie a tutti e buonasera e buon anno anche a voi. Grazie Barbara Fiammieri del Sole 24 Ore. Allora, quindi tanti questi i principali temi di geopolitica sulla quale appunto si è dovuto concentrare il governo in questo inizio d'anno, però i temi di politica interna cominciano a ripopolare l'agenda del governo, sono moltissimi, quindi cerchiamo di essere sintetiche. C'è il taglio dei parlamentari che viene sospeso, adesso ne parleremo, di questo referendum al quale mancano delle firme, la legge elettorale, si parla del Germanicum adesso, i transfughi dal Movimento 5 Stelle e anche il malessere all'interno del Movimento 5 Stelle con questo documento che contesta il doppio ruolo di Di Maio come leader politico, come capo politico e anche come ministro degli esteri, e poi la decisione importante sulle concessioni autostradali. Da dove cominciamo, Barbara? Non lo so, c'è anche la legge elettorale, tra l'altro. La legge elettorale, certo, lo dicevo, il Germanicum. Sì, il referendum, il ritiro delle firme da parte di alcuni esponenti. Allora, partiamo di Forza dal referendum, perché sapevamo che nei mesi scorsi era stata approvata, questa era appunto una bandiera del Movimento 5 Stelle, il taglio dei parlamentari, era stata votata e approvata l'apposita legge, dopodiché però diversi senatori delle varie forze del Parlamento avevano raccolto delle firme, 64 firme, per indire un referendum che potesse bloccare questo taglio dei parlamentari, questa riforma costituzionale. Però oggi cos'è successo? Che slitta il deposito di questo testo di referendum in Cassazione perché mancano delle firme. Si sono sfilati quattro senatori di Forza Italia e pare che anche altri senatori del PD, com'è che ci hanno ripensato, Barbara? Che è successo? Ma come al solito l'Italia è divertente, perché diciamo così. Le ragioni per cui questi parlamentari si ritirano ufficialmente sarebbero perché non vogliono dare alibi al governo di continuare, cioè loro sostengono che qualora si realizzasse il referendum, praticamente durante la pausa referendaria non sarebbe possibile andare alle elezioni, che non è neanche vero. E quindi per questo loro ritirano le loro firme. In realtà dall'altra parte sì, chi invece vorrebbe che il referendum si realizzasse è perché pensa che soltanto in questo modo si potrà arrivare a delle elezioni anticipate. Cerchiamo di spiegare il motivo. La legge, per come tu citavi poc'anzi, sul taglio dei parlamentari entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana, a meno che non ci sia la necessità per la consegna delle firme in Cassazione di un referendum confermativo previsto dalla Costituzione. In quel caso bisognerà aspettare lo svolgersi del referendum perché la legge entri in vigore. È chiaro che la legge sul taglio dei parlamentari, qualora fosse ritardata la sua entrata in vigore perché si deve svolgere il referendum, potrebbe indurre qualcuno, anche della maggioranza, come dire, a rompere l'alleanza pur di conservare il numero attuale dei parlamentari, perché se non è in vigore la legge e si dovesse avere una crisi di governo e si dovesse andare, troppi se capisco, ad andare ad elezioni anticipate, a quel punto varrebbe la vecchia legge, cioè ci terremmo i nostri 630 deputati e 315 senatori, mentre in questo caso sappiamo che diventano 400 e 200, quindi il giochino è sui tempi. La convinzione, in gran parte abbastanza, come dire, credibile, è che qualora si entrasse in vigore la legge sul taglio dei parlamentari, l'attuale Parlamento non farebbe un harakiri, perché molti di quelli che oggi sono in Parlamento difficilmente rientrerebbero, non solo perché i loro partiti andranno male alle elezioni, ad esempio, peggio di quanto sono andate la volta scorsa, ma gli stessi partiti che vanno bene probabilmente porterebbero in Parlamento lo stesso numero di parlamentari che hanno oggi, perché ci sarebbero ridotti e quindi inevitabilmente o qualcuno rimane fuori o qualcuno che spera di entrare rimarrebbe alla porta. Ma questi che si sono ritirati hanno avuto un sussulto così di dignità, di cosa, Barbara? Ma andava avanti un po' da tempo questo esercizio. È un po' un gioco delle parti, anche perché non è finita, tant'è che la Lega, che ha votato la riforma sul taglio dei parlamentari e che non aveva sottoscritto questo referendum, proprio perché diceva che voleva che entrasse in vigore la legge il prima possibile. Poi si è detto favorevole al referendum. Adesso che nelle prossime ore firmi la richiesta di referendum, proprio perché così pensa di poter accelerare il ritorno alle urne, insomma. Insomma, questo risico, come al solito. Senti, sentiamo Cangini, che era stato il promotore, il primo promotore di questo referendum, Cangini di Forza Italia. L'appuntamento è slittato perché alcuni senatori hanno chiesto di ritirare le firme che avevano apposto la richiesta di referendum, altri stanno chiedendo di aggiungere le proprie, quindi per rispettare la volontà e l'interesse di tutti, sia quelli che hanno avuto dei ripensamenti in positivo, sia quelli che li hanno avuti in negativo, abbiamo riaperto i termini. A maggior ragione ora, finché non vedo le firme, non mi sbilancio. Nessuno si è ancora aggiunto, ma nessuno si è ancora neanche ritirato, se per questo. Hanno chiesto formalmente di ritirare le firme. E altri mi stanno chiamando chiedendo di aggiungere. Bah, insomma, staremo a vedere. Invece, Barbara, sentiamo proprio con un passaggio molto veloce, perché abbiamo parlato ampiamente ieri, in parte anche oggi, facevo un riassunto, insomma, della politica estera del governo italiano. Sentiamo Di Maio sulla Libia. La Libia sembra un tema lontano per l'Italia, ma in realtà è una questione importantissima di sicurezza nazionale. Abbiamo un rischio di cellule terroristiche a poche centinaia di chilometri dai nostri confini. Ed è per questo che l'Italia è in prima linea per favorire una soluzione diplomatica al conflitto che è in corso. In queste ore sono stato a Bruxelles, a Istanbul, al Cairo e adesso ad Algeri per rientrare a Roma e coordinarci con il Presidente del Consiglio e con gli altri ministri e spingere la comunità internazionale ad un cessate il fuoco. Questo Di Maio. Poi dalla parte dell'opposizione invece arrivano le critiche, ieri di Salvini, oggi di Meloni, sulla questa specie di pasticcio diplomatico. Ancora non si capisce poi perché Sarraj, appunto, poi alla fine ieri non è andato a Palazzo Chigi, se effettivamente era irritato per la presenza di Haftar, se non era stato avvisato, insomma, ancora rimane un mistero. Sentiamo Meloni. È molto avvilente vedere una potenza come l'Italia governata da gente che, mentre il mondo è col fiato sospeso per quello che sta accadendo in Medio Oriente e in Libia, si incontra per parlare di legge elettorale. Per parlare di una legge elettorale proporzionale, e cioè consentire a partiti che perdono le elezioni di governare attraverso gli inciuci di palazzo. Poi quelle poche volte che ci si occupa di politica estera, come ha fatto ieri il presidente Conte, si collezionano solamente figuracce, cialtroni e poltronari. Mettiamo da parte, allora, questa era Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Andiamo invece su un tema, anche questo molto importante, quello delle concessioni autostradali. Barbara, oggi il Consiglio dei Ministri deve tenersi in particolare anche su questo argomento. Non mi sembra ancora che siano uscite delle dichiarazioni, c'erano però delle dichiarazioni durante il giorno, per esempio di Buffagni, che è vice ministro dello sviluppo economico in quota Movimento 5 Stelle, che dice: per noi è fondamentale la sicurezza delle autostrade. Per noi è fondamentale garantire la sicurezza delle autostrade italiane, la sicurezza dei nostri cittadini, l'abbassamento delle tariffe e il fatto che chi sbaglia in Italia paga. E poi muove anche, dà una risposta, una replica a Salvini, che ha detto: se sono tanto bravi, perché non le hanno ancora tolte le concessioni ad autostrade, visto che lo dicono dall'inizio, dal crollo del Ponte Morandi nel Movimento 5 Stelle. Ho letto Salvini che dice: se sono tanto bravi, perché non lo fanno? Perché c'è un processo amministrativo in corso, perché lo sa bene, se si ricorda quando discutevamo, gli spiegavamo anche a volte quando sono i passaggi amministrativi, che sono, sì, richiedono un po' di studio, un po' di approfondimento, che ci sono dei passaggi da fare, perché ci sono degli effetti collaterali che vanno studiati, perché c'è la tutela dei posti di lavoro, ma c'è la garanzia della sicurezza per i cittadini. Oggi ha parlato anche la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli del Partito Democratico su quella ipotesi che era circolata in questi giorni di una maxi multa ad autostrade invece di levare la concessione. Non abbiamo mai valutato, né privatamente né pubblicamente, l'ipotesi di una maximulta. Nei prossimi giorni il governo assumerà i provvedimenti conseguenti nella sua piena collegialità. E poi di nuovo Buffagni, che dice: noi non, il Movimento 5 Stelle non baratta 43 morti per una multa. Al contempo sono contento che, rispetto a questa notizia folle della maxi multa ad autostrade, anche i ministri De Micheli in particolare sia uscita smentendola. Anche, mi pare, Zingaretti mi hanno detto: il Movimento non baratta 43 morti per una multa. Allora Barbara, questa è una questione molto complicata, in corso intanto un processo amministrativo, Autostrade insomma diciamo è nell'occhio del ciclone inevitabilmente con tutto quello che è successo e anche con altri crolli che ci sono stati, per fortuna non con conseguenze così gravi come il Ponte Morandi, però c'è anche la questione della tutela dei posti di lavoro, no? Sì, c'è la questione della tutela dei posti di lavoro e comunque c'è anche la questione che quando tu intraprendi una strada devi sapere anche tutte le conseguenze sia sul fronte occupazionale, come dicevi poco fa, ma anche sul fronte delle famose rischio, no, di pagamento di indennizzi che può comportare una revoca unilaterale del contratto. Cioè poi quello che conta è il contratto che Autostrade ha stipulato con l'allora governo, se non sbaglio nel insomma 10 anni fa, forse anche di più. E quindi è sulla base di quel contratto poi che un giudice stabilirà, no, se la rescissione unilaterale di quel contratto è valida, non è valida, se deve essere pagato un indennizzo o meno. Quindi immagino, anzi è evidente, che c'è su questo un lavoro da parte del governo e in particolare del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dello Sviluppo, del Presidente del Consiglio, per valutare tutte le ipotesi e anche le conseguenze, per di più sul fronte occupazionale stiamo parlando di migliaia e migliaia di posti di lavoro. Gli ascoltatori dicono, per esempio Paola dice la verità sul Ponte Morandi, chi ha sbagliato paghi. È chiaro che naturalmente tutti vogliamo che le responsabilità siano accertate di una cosa gravissima come quella e anche di altri aspetti. Adesso poi nell'inchiesta si parlava anche di manomissione di documenti, insomma comunque capiremo un po' a fine, speriamo che la giustizia faccia il suo corso. Però un conto è la responsabilità penale, che ricordiamolo sempre è una responsabilità personale, cioè si va ad accusare qualcuno di un reato, di aver commesso un reato, no? E quel qualcuno ne risponderà davanti al giudice. Un conto poi invece quando si sposta il contenzioso sul fronte civile, lì valgono le carte, cioè quello che prevede il contratto, quello, cioè, non è che possiamo dire siccome è emerso, non so, che alcuni dirigenti di Autostrade, poniamo, vengono condannati perché appunto non hanno fatto i controlli o perché addirittura hanno falsificato documenti o perché per tutta una serie di ragioni, allora automaticamente è legittimo che il governo, no, disdetti diciamo il contratto, le concessioni. Comunque insomma è una cosa ancora piuttosto complessa, una questione complessa. Ci sono tanti elementi da tenere presente. C'è un ascoltatore che dice, questa è la sua opinione, dice passare da Aspi a Anas è come passare dalla padella alla brace, senza considerare che ci sono da mettere a norma tutte le gallerie, sono miliardi di costo che si accollerebbe lo Stato nel caso di revoca. Adesso Barbara, lasciamo adesso sospeso questo argomento perché finché ci sarà l'ultima parola ci vuole ancora del tempo, ma nel Movimento 5 Stelle intanto Italia Viva sulla concessione Autostrade dice siamo pronti alle barricate contro la revoca della concessione ad Autostrade. Passiamo però al Movimento 5 Stelle, in sintesi prima di chiudere, ci sono stati altri due addii oggi, deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri che si sono iscritti al gruppo misto. Quanta gente c'è in questo gruppo misto, fritto misto? Legislature vanno avanti, cara Roberta, i gruppi misti si affollano perché sono quelli che potranno domani essere i futuri responsabili, insomma, e ognuno vorrà contare per il suo drappello. Questi due deputati, da quello che mi risulta, sono due deputati vicini all'ex ministro della pubblica istruzione Fioravanti, quindi insomma andrebbero. Senti Barbara, ma vogliamo spiegare molto in sintesi, molto brevemente, alle ascoltatrici e agli ascoltatori cosa c'è in questo gruppo misto, cosa rappresenta in Parlamento? Ma il gruppo misto è, sappiamo che in Parlamento per realizzare un gruppo servono 20 deputati o 10 senatori. Quando non si raggiunge questo numero si entra nel misto. All'interno del misto poi ci sono delle componenti, cioè c'è il presidente del misto, però poi all'interno di questo gruppone ci sono varie componenti, per cui ci sono esponenti di destra, esponenti di sinistra, esponenti di centro, che appunto fanno parte di componenti. Dopodiché queste componenti a volte fanno, per esempio possiamo vedere che nel misto ci sono sia esponenti che sostengono la maggioranza che esponenti dell'opposizione, quindi in questo senso è anche misto, sì, non è molto misto, etichettabile come gruppo di maggioranza o di opposizione. Barbara, legge elettorale, ne parleremo prossimamente perché ancora qui è solo stato depositato per il momento questo disegno di legge dal Movimento 5 Stelle che si rifà al sistema tedesco, si chiama infatti già stato ribattezzato Germanicum. Ti chiedo solo una cosa, prevederebbe 391 seggi assegnati con il proporzionale e soglia del 5%, soglia di sbarramento, con un meccanismo per il diritto di tribuna. Tribuna allo stadio, si intende? No, si intende per chi non raggiunge quella quota del 5%, è previsto che ad esempio se raggiunge in alcune circoscrizioni elettorali di regioni diverse un quorum superiore a 5 può avere comunque dei rappresentanti di quelle stesse regioni. Quanto sono complicati tutti questi sistemi, guarda, almeno per i comuni mortali. Sulla legge elettorale però in particolare, sì. Il tema è effettivamente stiamo ritornando alla Prima Repubblica. Nella Prima Repubblica non esisteva lo sbarramento, indubbiamente il ritorno al proporzionale puro, sia pure con lo sbarramento, consente dopo le elezioni di aggregarsi. Di accordarsi. La verità vera è che più che un sistema maggioritario come per esempio la destra vorrebbe, sostenendo che questo garantirebbe la governabilità, il sistema forse ideale in Italia sarebbe quello del doppio turno, perché il doppio turno garantirebbe sì agli italiani di sapere prima chi si accorda con chi, come avviene per esempio per le elezioni dei sindaci, che sono poi le elezioni che sono state più amate dagli elettori. E tuttora. Barbara, ne parleremo. Intanto però c'è Roberto sulla pagina Facebook di Effetto Notte che poco prima che iniziassi la trasmissione evidentemente ha detto: spero che ci sia anche Barbara Fiammeri perché vi amo ardentemente. Sappilo. Grazie. Ciao Barbara Fiammeri, a presto. grazie a tutti, buonasera. Ciao Barbara. Pausa di riflessione e anche di respiro per vostre riflessioni, anche pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp. Torno ratta come la folla. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, in modo che ogni giorno, a fine giornata, avrete un quadro il più possibile chiaro e esauriente dei fatti principali dall'Italia e dall'estero. La vera sfida, Roberta Giordano con voi tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, la sfida è quella di raccontarvi, insomma, in meno di un'ora, tutto questo popò di notizie ed aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata, gli approfondimenti con gli ospiti, con i quali cerchiamo di chiarire alcuni argomenti in particolare. Abbiamo parlato dei vari temi che si affacciano in questo nuovo anno sulla politica italiana, a parte appunto le questioni delle crisi internazionali sulle quali la politica italiana si è dovuta concentrare in questi primi giorni, però poi tutti gli altri temi, dalla concessione autostradale alla legge elettorale, il taglio dei parlamentari, eccetera. Adesso però, mentre vi ricordo che per i vostri messaggi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugi in qualsiasi momento, poi SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Enrico dice: vergognoso il ritiro delle firme dei quattro sortentenna per il referendum del taglio dei parlamentari, fa risparmiare un caffè all'anno a cittadino, in realtà è un taglio di qualcos'altro, perché c'è qualcuno appunto che dice poca roba, qualcun altro invece dice è un bel risparmio. Ma adesso andiamo oltreoceano. I do not believe in terms of what is in the public domain that they have made the country safer by what they did. And that is what our responsibility is. A parlare è la speaker, la presidente della Camera americana Nancy Pelosi, democratica, che parla di Trump e dice: non è vero che con l'uccisione del generale iraniano Soleimani adesso il mondo è più sicuro. Vi ho parlato in questi giorni di questa grande crisi internazionale nel Medio Oriente che coinvolge in particolare Iran e Stati Uniti. All'indomani dell'uccisione del generale iraniano, il potente generale iraniano nel blitz americano e della moderata, diciamo così, rappresaglia iraniana con dei missili che sono stati, abbiamo spiegato in questi giorni un po' po' telefonati, nel senso che avevano avvisato dove avrebbero colpito, cosa avrebbero colpito, e sembrerebbe che non ci siano stati grandi danni. A che punto sta questa crisi tra Iran e Stati Uniti? Ieri Trump nel discorso alla nazione ha detto l'Iran non avrà mai il nucleare finché io sarò presidente, ha detto anche noi abbiamo missili forti, grossi, veloci, però poi ha detto noi abbracciamo la pace, tendiamo la mano a Teheran. Oggi l'Iran all'ONU ha detto noi non abbiamo voglia di fare la guerra, però torniamo a rinegoziare e facciamo in modo che gli Stati Uniti rientrino nell'accordo nucleare, che era quello che aveva stipulato Obama. Ma coinvolgo su questo il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Riccardo Barla. Ma caro Riccardo. Buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera a te, Roberta. Allora, sembra che in tutto questo, alla fine, pur con tutte le critiche, eccetera, l'avventatezza di cui è stato accusato Trump, abbia un punto dalla sua parte in questa... Direi di sì, lui ha usato questo blitz che ha portato all'uccisione di Soleimani, un blitz che sia George Bush che Obama avevano rifiutato di fare perché temevano le ripercussioni in Medio Oriente. E lui ha fatto come fece Reagan nell'86 quando attaccò la Libia, bombardò la Libia come dire, un azzardo per mostrare la potenza militare americana nella speranza che questo, come sembra in questo momento sta succedendo, potesse fare in qualche modo pensare a conseguenze negative, quindi a ripercussioni inferiori di quelle che si poteva immaginare fino a qualche giorno fa quando si temeva lo scoppio di una vera e propria guerra nell'area. E di fatto non è stato così. Oggi il comandante dell'aviazione iraniana ha detto che loro, ha confermato appunto quello che dicevi tu, che loro non volevano colpire obiettivi civili né militari come persone, quindi non volevano uccidere persone, ma solo hanno puntato su queste due basi militari per distruggere degli apparati militari, degli apparati logistici americani. Tant'è che oggi i mercati finanziari in tutto il mondo hanno svalutato con un rialzo generalizzato l'allentamento di questa tensione tra i due paesi. Gli indici stavano in più 500 e Nasdaq, Wall Street hanno addirittura ritoccato i record. Allora, Trump però ha detto comunque ci saranno durissime sanzioni nei confronti dell'Iran, evidentemente continua un po' ad alzare la posta, visto che ha fatto la voce grossa, ha ucciso il generale iraniano, ha visto che l'Iran tutto sommato insomma ha avuto una piccola reazione, poi si è ammorbidito, quindi diciamo prima o poi arriveranno, insomma sembrerebbe come... Lui non è un immobiliarista, non dimentichiamo, abituato a negoziare, a contrattare gli immobili, e quindi applica le stesse, nella diplomazia applica un pochino la stessa tattica. Modalità. Però Riccardo, nel frattempo il Congresso americano, il Parlamento americano sta votando per limitare i poteri a Trump, perché dopo questa uccisione non condivisa evidentemente con altri apparati importanti del governo, il Parlamento sta votando. La procedura prevede che prima di un attacco del genere, il Presidente può decidere un attacco del genere, ma prima di appunto prendere una decisione del genere deve, li chiamano i sette cavalieri, deve avvisare i due capi del Senato e della Camera e poi i vari rappresentanti, presidenti delle commissioni principali al Senato. Cosa che non ha fatto, ma quindi stanno votando in questo momento? E allora no, appunto oggi voteranno la Camera, la maggioranza democratica voterà questa legge che prevede che in caso di nuovi attacchi contro l'Iran il Presidente Trump dovrà preventivamente avere l'approvazione del Congresso. Immagino non solo, Riccardo, nei confronti dell'Iran, forse anche in generale. La legge parla dell'Iran, questa crisi iraniana, però momento. Evidentemente se dovesse passare questa legge anche al Senato, e sembra che... è probabile che passerà anche al Senato, perché ci sono lì la maggioranza dei repubblicani, conta 53 senatori e due senatori che sono Randy Paul e Mike Lee hanno già detto che voteranno a favore di questa restrizione. Esatto, e quindi quando passerà anche al Senato in qualche modo Trump avrà una specie di potere limitato, e per un personaggio del genere non è sicuramente una cosa piacevole. Poi l'altra cosa che viene fuori in queste ore, in realtà il primo danno collaterale tragico di questa questa crisi tra Iran e Stati Uniti, perché vi ricordate c'è stato questo disastro aereo del volo ucraino ieri. Sì, infatti ieri. Vedevo e ho aggiornato io poco fa, Riccardo, anche che da parte canadese il primo ministro ha detto, siccome c'erano 63 canadesi morti su quell'aereo, ha detto è stato un missile iraniano. È ancora tutto questo da chiarire. Direi di fermarci qui perché purtroppo il tempo corre, vediamo se arrivano altri aggiornamenti, insomma i sospetti sono piuttosto grossi, non so se abbastanza anche fondati sul fatto che ci sia stato un missile iraniano che per sbaglio o per qualche altro motivo abbia colpito questo aereo. Grazie intanto Riccardo Barlam. Ciao caro Riccardo. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E dagli Stati Uniti e l'Iran, dalla crisi internazionale, alla Gran Bretagna, con un breve aggiornamento dal nostro Sergio Nava a proposito di Brexit e non solo, perché a parte lo strappo per quanto riguarda la Gran Bretagna di Harry e Meghan, di cui abbiamo parlato ieri, che vogliono ritagliarsi un ruolo un po' indipendente dalla Casa Reale con l'ira di Elisabetta. Allora, Sergio, oggi è stato fatto un altro passo verso la Brexit, ma in due sensi, nel senso che è stata ulteriormente ratificata per il momento dalla parte della Camera Bassa, e però questo conseguentemente porterebbe probabilmente, secondo voci che sono corse oggi, anche a mettere in forse l'Erasmus, no? Che questo bello scambio che dura da tanti anni di studenti in tutta Europa che possono passare un periodo a studiare in altri paesi d'Europa. Ciao Roberta, scegliamo subito le due questioni, partiamo dalla prima, quella di più stretta attualità. Stasera a Westminster i comuni hanno approvato la Brexit Bill, cioè la legge su Brexit, che a questo punto passa la settimana prossima alla Camera dei Lord. Se non ci saranno emendamenti finirà lì, nel senso che il Parlamento britannico nelle due Camere avrà approvato Brexit, in caso di emendamenti tornerà nuovamente a Westminster, ma sarà solamente una formalità burocratica, prima che il Parlamento europeo il 29 gennaio approvi da parte dell'Unione Europea il trattato, insomma a quel punto di uscita, a quel punto il 31 gennaio alle 23 UK, a mezzanotte italiana, la Gran Bretagna lascia, primo stato nella storia, l'Unione Europea. Per quanto riguarda invece l'Erasmus, sì. Allora qui a mio parere si è un po' ingigantita la questione, perché tutte le relazioni future tra Gran Bretagna e Unione Europea andranno ridiscusse da febbraio, o più verosimilmente da marzo fino a dicembre, quindi anche questo poi inevitabilmente entrerà nella gran calderone di argomenti che saranno soprattutto commerciali, ma avranno anche dei coté di altro tipo, come appunto quello degli scambi accademici. Quello che è successo è che semplicemente il Parlamento britannico ha bocciato una mozione, un emendamento proposto dai liberal democratici, partito filoeuropeista, per garantire che la Gran Bretagna resti all'interno dei programmi di scambio studenteschi. Tra studenti europei. Da lì a dire che la Gran Bretagna esca dall'Erasmus, secondo me è un po' eccessivo, anche perché poi il Ministero dell'Istruzione ha subito detto dobbiamo ancora negoziare, chiaramente faremo i nostri interessi. Però c'è un dato interessante che vi voglio dare. L'ultima rilevazione relativa agli studenti italiani Erasmus, sia in scambio di studio sia in scambio anche di tirocinio, perché l'Erasmus ha varie declinazioni ormai, nell'anno accademico 2018-2019 gli ultimi dati disponibili erano 3.318 contro 1.397 studenti britannici Erasmus in Italia, quindi praticamente sono il doppio gli italiani che vanno in Gran Bretagna. Esatto. E quindi questo sarebbe un bel danno, ma insomma per il momento ancora bisogna vedere se poi la userà la Gran Bretagna come merce di scambio tra virgolette in questi negoziati, no, che procederanno. Chiaramente, bisogna ancora vedere, la tabella di marcia chiesta a Johnson è di soli 11 mesi, l'Europa, Bruxelles dice sono troppo pochi, al momento una via di mezzo potrebbe essere che in questi 11 mesi si disegni, diciamo, una macrostruttura di relazioni future e poi la si completi, la si dettagli negli anni, o due anni successivi. Sì. Benissimo, grazie Sergio Nava. Grazie a voi, ciao. Ciao Sergio. Justin Bieber, chi non lo conosce, star di portata, pop star di portata internazionale, ex enfant prodige della musica internazionale canadese, che ha fatto una dichiarazione, ha fatto un annuncio, dice: mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme. Avevamo parlato tempo fa di quello che aveva detto invece Fedez per quanto riguarda il suo problema. Lui ha parlato di questa malattia di Lyme, dice: molti dicevano che ero sotto metanfetamine, ma non si sono resi conto che recentemente mi sono state diagnosticate la malattia di Lyme e una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle e le funzioni del cervello. Allora ne voglio parlare con un esperto, il professor Maurizio Ruscio, direttore del Dipartimento Diagnostico dell'azienda universitaria di Trieste. Dagli anni 80, pensate, ha assistito a più di 127.000 casi di questo tipo. Professor Ruscio, buonasera. Buonasera a voi. E che cos'è questa malattia di Lyme? È una malattia batterica trasmessa dal morso della zecca. L'agente microbico è una borrelia, una spirochetta che sostanzialmente è mantenuta dall'ambiente nel sangue di piccoli roditori. La zecca si infetta, trasmette col morso questa borrelia all'uomo, si diffonde moltiplicandosi nella cute. Se non viene trattata passa nel torrente circolatorio e si diffonde a tutti gli organi, quindi interessa dalla pelle a quasi tutti gli organi che abbiamo. Accidenti, quindi parlava Bieber anche delle funzioni del cervello, può essere così grave quindi, professor Ruscio? Sì, perché dipende dal ceppo di borrelia implicato, alcuni di questi prediligono il tessuto nervoso, per cui persistendo nel sistema nervoso anche per lungo tempo è in grado di produrre dei danni. Le terapie? Terapie ci sono, efficaci, sono terapie antibiotiche e riescono a debellare l'infezione. Il problema non è tanto la terapia, il problema è spesso la diagnosi. Ci sono complessità in questo aspetto della diagnosi. Le complessità derivano dal fatto che il 50% delle persone non si accorge di aver avuto il morso della zecca, il 20-40% delle persone non hanno le prime manifestazioni cutanee di allarme, il cosiddetto eritema migrante, che induce che permette di fare una diagnosi immediata, e quindi la malattia riesce a incubarsi anche per molti mesi, talora per anni, dando origine a sintomi che non è sempre facile diagnosticare. Accidenti alle zecche, insomma. Quindi i primi sintomi, professore, abbiamo 20 secondi, giusto per dire i primi sintomi di cui bisogna... Un arrossamento nella zona del morso che compare nelle settimane successive all'asportazione della zecca, si diffonde 2-3 mm al giorno ed è il sintomo tipico della malattia. Qualora si riscontri, la terapia efficace è fatta immediatamente. Grazie professor Maurizio Ruscio, grazie, chiarissimo, sintetico, grazie professore. Grazie, buona continuazione. A voi. Buona serata. Ci aggiorniamo alle 22.